Penso al mondo come a un'armonia, tutto è giusto sia così, se ogni strada è la strada mia, e il mio posto è stare qui, l'odore del mare mi calmerà, la mia rabbia diventerà. Stelle di città che in questo istante proprio come me vivono l'immensità.